Vabbè, ok? Ci okay. sentiamo. Ciao. Comunque ti faccio sapere. Se trovi qualcos'altro, bene. Buongiorno, bello! No, anche dopo, adesso sono stati venuti.